cadrà bagnandoci l'acqua di primavera. Sparirà il freddo, sembrerà strano, col fiume nel mare andrà. Sarà il sole scaldandoci dall'alba fino alla sera. Se ne andrà col tempo l'inverno lontano, il calore ci avvolgerà. Un sogno stavolta a darci una mano, crederci ci aiuterà a capire qualcosa perduta negli anni, ritrovarla ancora qua. E con noi continuerà. Tornerà stupendoci ancora la primavera, a sciogliere il ghiaccio e ci prende per mano e ci regalerà. Storia di vita più semplice che si racconterà di sera, dirà di noi e come eravamo prima di stare qua. I sogni a volte danno una mano a capire la verità, tornare le cose perdute negli anni, averle ancora qua. Poi quel tempo con noi sarà e la storia continuerà quando un sogno ritornerà.